Blue Zone, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati agli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. Ci sono 100 milioni di euro in arrivo per le produzioni dell'area mediterranea. Con una modifica al bilancio generale europeo per il 2017 e con l'accordo del Parlamento europeo sono stati aumentati i fondi per l'ortofrutta. 100 milioni di euro da destinare in particolare al sostegno delle produzioni dell'area mediterranea che necessitano di tutele e che soffrono le criticità date dalla crisi economica e dai mercati, dagli accordi commerciali non sempre equi con paesi extra UE e da virus e malattie di importazione. Ne parliamo con l'europarlamentare Giovanni Lavia. A chi andranno questi 100 milioni? Sostanzialmente i 100 milioni sono appostati in bilancio per una eventuale crisi. Dopo quello che è successo negli anni passati, dove ci sono stati crisi nel settore degli ortaggi, della frutta fresca, abbiamo deciso di appostare 100 milioni di euro per venire incontro ai produttori nel caso di eventuali crisi. In questo caso quindi scatterebbero misure di ritiro dal mercato, misure di sostegno al reddito degli agricoltori, e questi 100 milioni stanno lì nel bilancio messi di lato appunto per questa evenienza. È un passo avanti perché sappiamo che da qui in avanti avremo sempre più oscillazione dei prezzi sui mercati e il rischio di crisi è una eventualità che purtroppo dobbiamo tenere in conto. E allora da quest'anno in poi avremo un appostamento di bilancio per venire incontro a eventuali casi di crisi, perché in passato non eravamo attrezzati, così ci attrezziamo per guardare al futuro con maggiore serenità. Parliamo anche di produzioni italiane. Ovviamente sì, perché in questo caso i 100 milioni andrebbero per le produzioni ortofrutticole, quindi ortaggi, agrumi, frutta fresca e secca. Dall'altro lato però c'è un altro stanziamento di bilancio che è stato destinato al comparto lattiero-caseario, anche in questo caso misure di intervento in caso di crisi. Quindi l'Europa si inizia a attrezzare per pensare di guardare avanti a sostegno dei produttori che potranno incontrare difficoltà sui mercati con prezzi bassi o con difficoltà per vendere il proprio prodotto. Purtroppo i mercati sono sempre più volatili e abbiamo bisogno di strumenti di sostegno nel caso in cui il mercato non riesca a assorbire a prezzi remunerativi i nostri prodotti. Ci sono finanziamenti ad hoc anche per l'innovazione? Sì, sostanzialmente siamo all'inizio della programmazione 2014-2020 che comincia dal 2016, ha cominciato a esplicare i suoi effetti con la pubblicazione dei primi bandi, e in questa politica di sviluppo rurale fondi strutturali dell'Unione Europea, il FEARS, abbiamo una serie di misure per l'innovazione, per spingere le imprese a essere più competitive, per ristrutturarle perché possano stare sui mercati in modo competitivo. Anche per gli agricoltori italiani una prospettiva per investire e per essere competitivi sui mercati. Euzone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.